Allora. Ah, lontananno. Catta. Già sono fresco, Catta. Oggi fa caldo a vino, io l'ho creduto bene. Ma che è terminata avresti, Muretto? Ah, per il caldo. Ah. Molto ce l'avresti. Ah, ah. Vabbè. A fa mura secco, così. Così è lui, mura secco. Ah. Ma è importante la pietra tutto lì, no? E tanto le pietre sono lì vicino, no? Ehi, ehi. Beh, aveva qualche cosa vicino lui. Ehi, pietra. Addirittura. Però meglio piccoletta che a baitarlo. E allora, c'è una casa di un cianzingo, era qua sotto, la mettetevi, è stata di là, che l'ho bugata, e l'ho venuta appena ci ha portato giù di là fuori, seminando, e dine cosa fai noi, a morire di fame, e infatti, tu sarai di dietro, capito? Ma con due che cosa fa, con più eccetera, capito? Ma è tu cosa fa? Non fa di niente, boh. Macello, faccelo veramente. Vabbè, ma quando c'è bisogna pigliarlo, capito? Bisogna fare così. Fermi, non mi quitta che abbastanza. A che tanto, c'è a casa, ma padre, cosa fa? Non fai niente. Siamo che siamo lì, qualcosa va, capito? Tutto lì. Bene, bene, va. Tutto bisogna fare nella vita, bisogna fare tutto. Impararci e poi la bassi di seguito. Capito? Bisogna fare così. Qua con la quale c'è anche se poco, bisogna pigliarlo, Se forse c'è sempre il vento, quindi, ma che c'è la nera, che cosetta, dice, ci vanno, oppure ho pensato a quello, perché se uno vuole qualche cosa, ma lo dovrebbe fare, per carità. Meno male che Luca ci ha chiesto che fa, hai visto? Fa bene. E adesso appena che finisce lì, qualche giornata gli faccio fare anche campagna, che già gliel'ho già detto. Appena che finisce lì, viene da me. No, hai visto, no, io non arriva a quello lì, no, Non sei a quel punto lui, per cui tranquillo sempre, meglio passare sempre a faccia in alto in tutti i posti. Bravo, così bisogna, sì, bisogna essere così, lui, fai bene, non bisogna mettere appresso a quei mascalzoni, capito? Vai, la so bene come sono. Così bisogna, sì, allora. Così bisogna essere. Infatti. Cosa? 10 minuti, un quarto d'ora, vai. Si tira. Fatto, almeno sono più tranquillo, capito? E poi adesso magari si assestano i tiranti, magari si allentano e bisogna anche regolarli, eccetera, capito? Però mettendoci quelli affari che ci sto dicendo io, a frega si possono tagliare, invece ci metti quelle curve, no, il capo rimane sempre integro, capito? Ehi, ha detto che per il lavoro non pensi di licciarti di sciuro, capito? Per cui è chi ha ragione. D'accordo, dai, ci sentiamo e so come lo facciamo a questione qua. Già ci sentiamo lui, ok, buon procedimento, saluti in casa. Care, vivo sì, bello bene. Chisio, ore, hola, canale 23. Hola, se ne c'è il canale 23, San Mari. Buonasera, caspita. Buonasera, certo che si sente. Ma sei in tournée che si dice? Sì, in tournée a Consalimero Garrello, piano piano, il coso delle luci sta aggiustando. Ma a me pare non ne può sapere da 15. Addirittura. Già. No, non è dall'impianto, no, c'è una lampadina della luce a targa che non ha voluto accendere, lo so. Adesso domani mattina la porto dal mio genere e faccio controllare dove attacco lo spinotto, a vedere se lì il problema. Ah beh, e allora forza, lo dire, senz'altro sto genere già lo sa cosa fare. Sì, lo prende e guarda a vedere se è staccato il cavo oppure boh. Adesso domani lo provo attaccato al carrello a vedere se funziona, perché le luci città funzionano. Anzi, le luci di posizione funzionano, le frecce funzionano, l'unica cosa che non funziona è lo stop che c'è la lampadina di addaglia. Allora senz'altro c'è qualche filo che vuole controllato. Se funziona solo quei due, allora ma non ci sono problemi, già riesce a pulire da punto, dai. E oppure ragazzi, io una volta, il carrello mio, me l'ha attaccato un altro, cazzo, si vede che l'ha attaccato al rovescio, me l'ha forzato, mi ha rotto l'attacco, no? Siccome va tirato da giù e poi girato verso su, no? E quelli invece girano verso su, ha girato giù e mai quasi quanto l'attacco. Tra di Boccarini a Viale Portatore, 5 minuti e 40 euro. Sono luci solo, elettrauto e così. Tu c'hai quello che si infila dentro e si gira a parte in su, è come ce l'ho io attaccata alla macchina. È così infatti, si gira a parte in su e dopo si gira su e è a posto. Beh, quello là me l'ha attaccato al rovescio e mi hai passato quanto l'attacco del carrello, lo maschio, capito? Allora ho avuto un po' di comprare la nuova e me l'ha portato appunto. Scusa il telefono. Fate così, Io non so, quello deve essere, domani glielo porto, me lo faccio controllare. Se c'è qualche filo staccato da quello attaccato alla macchina, ho segnato che c'è attaccato alla macchina. Aspetta, lascia un attimino che c'è mia figlia in magazzino. E già sono qua, Gianmari, chiama. Oh, signor Bacchisio. Sotto. Sì, a Gianmari. Siccome si ha preso quell'aggeggio per lei quando si ferma la macchina, in qualsiasi posto vengono a prendersi i carrozzeri, no? E gli devo attaccare, devo chiudere. Sì, ok, già sono qua. Ci sentiamo, Gianmari, alle prossime, ok, ciao. Che ciao, ciao, dai, almeno gli attacco, poi va attaccata la batteria quello lì. Se l'attacco lo dopo cargo, giustamente se non ti sente, sai che mi ha battito, senti, ok? Ok, Gianmari, ci sentiamo. Ok, ciao. Bacchisio, attenzione, signor Bacchisio. Signor Bacchisio. Signor Bacchisio, sei tu, non stai uscendo, Io sono dentro casa, non sto uscendo, sono a parte. Sta da riputa che mi date, certo, chi su, babù, che ci deve fare a trattini. Buonasera, certo, buonasera. Sì, buonasera anche a lì, certo, babù, andiamo dove andiamo. Sì, mi si sta uscendo, no, non sto uscendo, sono dentro casa, se sto fuori mi prendo il sole. Non lo so, qui, babù. E allora perché mi metti solo la portante? C'era Gio Maria, ma è dovuto scendere in magazzino per la figlia, non so cosa voglio fare. Oh, sì. Gioco da lunedì che sto combattendo con il coso del carrello. Che cosa stai combinando? Le luci, ho messo a posto tutto il coso di dietro. Pezzi nuovi, da che d'altro, certo, e se stendi giù la luce di posizione, quella della targa e le frecce. Lo stop uno funziona e una luce di targa non funziona. C'è stato qualche filo interrotto. C'è un filo interrotto, c'è ancora un solo. Quindi gioco, cosa ne so, se c'è qualche filo. Se non funziona quello del comodo che comprava un panalino nuovo. La seconda mano. Poi non ha ciappe di chi usato, non ne trovi. E che cosa, comprarlo nuovo e fai brimma. Allora, anche se già avviamento, oppure via Cresoggio, via Fonistesa, per il negozio del risparmio. No, sono i fanalini del carrello LB, ci vogliono quelli originali. Ah, quelli originali, ma quella è roba contraffatta, non è originale. Ascolta, mi ammette se cosa e ecco, mi metto gli originali, così costa 28 euro, ma che se ne affutti, ma è originale però. Vabbè, se poi si trova il capito che non è originale, non ti basta niente con l'auto, devi passare a capo. A me mi chiede più che altro per fare la revisione e poi ne ruggavo e ti pongo un piccio d'ora. E che tu mi fai? Ah, se ne fai dopo il nuovo? Metto da parte. Ah, di riserva. Sì, perché quelli i cugi si rompono sempre, si rompono in un piso. Adesso sto provando a farlo funzionare, a vedere. Ho capito. Ho un figlio. Marino, sei sentito? E io sono da domenica che non entro la sera. Era da domenica che me la arrangia lì. Domenica era a mare, quindi da una cosa e l'altra. E non bisogna che entra a domani nulla, sino a stasera. Infatti ho già sentito questi giorni. E non ho immaginato segnato a mare. Domenica, certo, ne so che ci devo rugare a bronzarlo. Sì, dai. Sì, però sotto l'ombrellone mi penso un po', ma ci ho fatto il bagno ed ero sotto l'ombrellone. Ombrellone mano che tappava e era freddo. Dice che c'è arietta, ogni tanto che fudia. Ah, ma dei scivioni due, posso rientrare, si attaccate tutto. Vi voglio attaccare il salgeggio. Buonasera, signor Marchisio. Buonasera, signor Figaro. Buonasera, buonasera. Ben ascoltato. Sono con il signor Scuolo Pallido. Hai sentito, attore? Compra il panellino nuovo per la revisione, dopo lo toglie e te lo conterrebbe con lo sagraziano. Lo vuole in armadio, lo vuole. E lo copre per il raffreddore. Sì, ma quando non funziona tu cosa fai? Ti piacciamo? L'ho detto che si siete sopravvolati un macchino. Aspetto che quello lì, se no funziona, lo prende e lo cambi. Mettici di nuovo direttamente, gatto, e lo sta prendendo e gli assi nuovo, almeno c'hai una cosa nuova e sei tranquillo, vai. Di Susi, quello sì, che faccio così, lascio quello lì, gli lascio che funzioni tutto. È vecchio, lo fai a graziare che se lo conservo. Sì, vabbè. Lo metto quello vecchio, lo metto da parte, se in caso mi si vega che pizzo. Per sempre, vai. E dopo la parte è conservato, si sa mai. E i fasci è da voi vi la iola già pronto. Sì. Avanti, signor Macchi, e beh, quando siamo quelli campani, già più travagliati, sì. Sempre facendo pulizia, questo periodo di pulizia. Stiamo preparando adesso. Non riesce nulla, andato fino alla mala, non si riesce a fare nulla. Calore, acqua, al nastro, spese al nastro, in caso zero. Cazzo, il caldo è morto quest'anno, per cui ti lo dai Eva, e cosa fai, cazzo? Ti arruina già tutto, ma perché io sono sceso ieri mattina, ho dato una piazza, una volta a settimana sei in una piazza, boh, ma io innaffio solo gli agrumi e basta, ti ha battuto. Gli agrumi c'è in casa Guccia, ti ha provveduto la mattina quando scendo, poi li ho chiuso la sera quando salto, non giorno che ha voglia prendere acqua, sono a Bagnomaria. Vabbè, ma io ne ho troppi alberi, capisci? A farli fare il genere, cazzo, e poi il subito su anche una campagna, ma fai questi tubi, oh, e poi puoi rimanere pure a travagliarsi, no, no, ma mi ne sono troppo piatti, magari ho scato magari 7, 8, 10, vabbè, ma ve ne sono un bel per cui a me non mi conviene, capisci? Conviene sempre, risparmi acqua, risparmi tempo e denaro, perché l'impianto non fu messo in terra, fu messo in alto, per il modo che puoi passarti sotto, tranquillo e beato, io ci passo sotto, perché sono in alto i tubi, ci lavoro, faccio tutto quello che c'è da fare, e non mi da fastidio. Non è vero andare a sera allo Pascone, no, saranno. Poi, cazzo, vabbè, tu l'hai voluto fare, io non ho... Avevo l'intenzione sempre di fare, ma non ho mai fatto proprio per questo motivo. Per avere tanti tubi in mezzo ai piedi, capito? Anche se li fai da un albero all'altro, è un cazzotto, quando si butta, soltanto, cosa la viene male. Anche me ne sono troppo, guarda. Che non ha giocato pure un bagaglio, capisci? Che è un problema, è tore, vero so? Infatti, il problema è sempre il mio. Ma se fosse qui da manira io, che tocca a Zori, non lascio ducca. E allora, ma chi già per un Roberto Mazzaro una sera, l'usacca, ed è a posto, vittola. E non travaglia più. Bisogna fare così. Vero, signor Bacchi? Ah, bisogna fare così. Anche la piantagione, giù in tutto il tubo, la piantagione, apri e fa tutto da solo. Anda, o che niente le faccio così, a solo, a cambiare. Questo periodo, sì, ne ho 3-4 giorni da fare così. Sono andato in tutto il piantagione. Ho venuto a più, no. Ah, vabbè, pazienza, aspetta quando arriva il fresco. Mi faccio il tubo, mi vado a fresco. Ieri invece mi ho tappato, non dico molto, con 30-40 buchi. 7. Il gas è così. Quando c'è l'acqua nel tubo. E poi il campanello tubo. Tu apri il pianto a innaffiare ed è un coso, un colo bruno. E allora devo lampare il suo tubo. Ho buttato via. Quest'anno ci rimane quello, prossimo anno ricambio. Tanto signor Picchio si è preso gusto adesso. Ah, è buca e via, dice io non fermo un po' più. Ah chi? Come ti sei buccato? Con Rusori? Il picchio, l'uccello, va a seccare l'acqua. Non sai qual è il picchio, quello che fa i buchi nella legna. Fa seccare l'acqua nel tubo, quando fa il tubo, figlio di fare la stampa lo si leva. Aspetta, pure chi c'è vivo, pure deve venire. Perché gli dovresti lasciare un secchio con l'acqua, eccolo già, allora se la cerca lui l'acqua. Non c'è il secchio d'acqua, c'è solo nel boschetto dove vengono gli animali, ce n'è acqua in giro, non ci fa lui a bere così, fa a rompere le palle nei tubi, si fa il buco nel tubo. E poi se le fa due vicino all'altro, 5 centimetri l'uno all'altro, un palmo, un metro. Quello della pallata ieri, io non ci ho fatto 30-40 minuti, era tutto a tappo. Infatti è così, purtroppo questi bisogni, ma non basta, sono intelligente dall'altra, no, no. Andare. Ciao oh, signor Gio Maria. Ok, un macello. Adesso la prossima anno le metti delle nuovi, i tubi, i bacchi. E pida quelli più grossi, almeno è più duro e non lo buca tanto facilmente, capito? Assurdo, c'è un vento là, immagina il giorno, buca la legna. Buca la legna, non buca quello. Lo so che quello buca il tronocco dell'albero, ma la sorte. Ecco, è bello tondo se lo fa a me. E da poi si fa riunire il resto. Come ti chiamo? Il pezzi rosso, chi sono? Come ti chiamo? Picchio, fischiando, sai, ma... Fischiando, stavo. Ehi, capito, Marcello, ma oh, no, ehi, adesso è tempo di riposarci, ma chi? Ah, una cosa ti dico, mi, pensa alla salute della campagna, ma si vecchia. Sull'aria sarei uscito, ma... Oh, va bene. Cambiato, vai, così, ma... Ciao Lu. Ehi, facendo sta, facendo, ma chi lo sa? È sempre da palazzo facendo in campagna. Lu, sta, sta, prova. Non passa, i tanti belli in campagna, pure in casa, i tanti belli, ciao. Vuol dire che la gana di va, vuol dire che non si intende il tracco. Ma chi, ma insomma. Piano, piano, bisogna fare. E lui, e tu cosa stai facendo? Ehi, ehi, vai, ma chi? Facciamo papatacce, papatacce, papatacce, prendiamo. Ah mia, avevi già in campagna, papatacce. Ma che avevi già papatacce in campagna tu? Ah, ce ne sono, io a Vuglia. A Vuglia ce ne siano, adesso quando comincia a calare il sole, mi dice, niente di fare. Ma mia, baccarizzai, ghiaccio. Ghiaccio, lui ha preso qualche cosa, ghiaccio. Desi di ferro mi ha fatto ammazzare. Non si vedono, cane, e ti aggrediscono. Ma quando ti accorgi, sta arrivando, la musica ti ha avviato. Ah, sorry, non lo fungo, tanto. Da me sta venendo lontano. Perché sei lontano così? Da me no, non arrivano. E va già l'antizinco da oggi. È a Luca, a vivere di Luca. Non c'è, no, è uscito, sempre facendo. Oh, Giulia, andiamo, dove andiamo? Bisogna stare attenti alle zanzare a tigre, l'hai sentito? Dove ci sono i naffiatori, bisogna stare attenti. Tanto, sentiamo, mi raccomando, va già bene. E ci sentiamo, vai. Ciao Luca, non mangia troppo, però mi cate, se no i papattacci di bugnini d'ora, cate, andiamo mari. Ciao Luca, buona serata, buona cena, a risentirci, ciao ciao, e i papattacci al rosso, ciao Luca, però. Avanti domani. Ok, cazzo, va, sto comprando le mammazzano, cazzo, lo ci sono preso, fare un ghiccio all'impicciata di lì, cazzo, però ogni tanto mi bugnano i gatti alla vecchia, cazzo, ogni tanto mi bugnano i gatti alla vecchia, tutta fracassata. Cazzo, sono maledetti, poi un manzano, oia, al fresco, viaggiano come niente a forza. Per carità, cazzo. Ehi, vabbè. Allora, mi bocca a fare, mi bocca su una specie di... Mi spruzza i sapere, una specie di zizi, come si chiama. E la vecchia, la macco, non mi bugnini. Cazzo, che mi fa tirare la vecchia a peppa? Ai prati no, e all'anchi no, ma che faccio il mattone longhi e la meglio a tamare i longhi, farò sicuro, anche se non è per assumere a voi, pure i prati, che si vede una pugna a me sempre. No, la maglietta la passa come in notte russi, il pantalone è una testa, c'è a forza si stampa, ma ci sono micidiali quell'animale. A fondo della giusta che si può anche zanzara. Cosa di zanzara mi bongo. Andate a casa e dai per rimanere male che ne farà in terra. Bingidi. ne va a zecca, ne va a... quindi non me con fuggi, no. Ah, zanzere, cosa vera, zanzere in duccio, la tutta zanzariera, ma è to. Storre, la tutta zanzariera c'hai. Oh, l'antizanzara, è un repellente per le zanzare. Stanno a pugniti nel gaggio da matteci. Ah, così è. Vai, vai. Detto che hai tabrati gocci, oh yeah, per carità, ma chi sale già a che cosa? Yeah. Non vuoi fare abitudine, io voglio che non abbia più, l'amo che gli fate una beffa, a me la mia pugna è già morta, gli fate una beffa, mi fate, faccio la cassetta, faccio la pantalone, mi cazzo dove sono, è un guaio, e poi di ciò, però mai provando un confinante mio lì a caccia. E appena che io voglio la vettoria per poi la macchina, quando vado a pigliare la macchina piena di piatto d'animali, piena. Bobo, schiaccia, vai a secca dura. Mettere la righi chiari di arrampare giù i medici tutti i campagni, ma da poi della guerra ira furono i casi, i ricati si dai a di arrampare questa cosa che non vede né più né pulita né più dolce ed è manco solo che Dio sta acciappava, te la metto qui c'erano un DDT, questo che è arrivato un DDT che mi dicevo DDT 30 o una ventina d'anni fa venire ancora in mezzo a fare, che dopo India Rosuzzaro, che era vietato per commerciarlo. Chi se gli ha lavoro la medicina? Ah, va, medicina, non dopo fa di medicina, ma è tutto Eva, a filo, non si rilassi di roba come ci si dice, capito? Oh. Certo, prima sì, era proprio un mese di raffino, la voce l'America se la via d'altri che ha fatto l'Italia che è all'appalto a tutti i costi. Però non per la macchinazzare più in giro, da un mezz'anni, e facciamo anche qui i sviluppi che sta per tutto, sono più pericolosi pure, quindi la tigre ha un altro due o tre tipi, chi sono maledetti, la prima a 39 e 40 e più. Sono pericoloso, è troppo pericoloso, eppure quando bisogna fare le mie compagne e lo domanda, ce n'è ancora degli studenti di che aveva stato risolto, veniva un 400 scatto di magazzino, ce l'ho stato lampato, tranquillo, non uscire di più, né tarranco, né frumico, né mocca, né nulla. Abbiamo creato un bustino se non si voglia parlare. E infatti, e papà, papà mi si riprò più, che fate?